Riprendiamo la rubrica Un racconto al giorno. Oggi leggeremo l'incipit di Nostalgia di Ermanno Rea. Questa storia comincia dalla fine. Comincia con la morte del protagonista, Felice Lasco, ucciso con due colpi di pistola da colui che in giovinezza era stato il suo amico del cuore. Non sono uno scrittore, sono un vecchio medico in pensione e non mi intendo molto di strategie narrative, se non che sono venuto per avventura a conoscenza di una vicenda che mi è apparsa subito densa di significati, non soltanto contingenti, personali, ma che investono l'intera comunità di cui faccio parte, Napoli, e in special modo la più derelitta delle sue aree urbane, il rione Sanità. Tuttavia, in principio, non ho mai pensato seriamente che l'avrei messa per iscritto. Amo la letteratura, ma non è il mio mestiere. Quando però Lasco è stato ucciso dall'uomo che da ragazzo gli era stato più che fratello, ho capito che non avrei potuto esimermi dal raccontarla. Quasi una questione d'onore. E ho deciso che sarei partito dalla fine. Una marcia all'indietro alla scoperta, oltre che delle ragioni di un delitto, delle radici del nostro male di vivere in un mondo troppo pieno di ingiustizie. Quanto al titolo, ho esitato a lungo, tra varie ipotesi che però riflettendo si rivelavano ben presto tutte insoddisfacenti. Infine, l'illuminazione. Nostalgia, che è poi il sentimento che domina il protagonista di questa cronaca e ne determina le scelte. La parola nostalgia nasce dall'abbinamento di due vocaboli della lingua greca classica, nostos, che significa ritorno, e algos, che vuol dire dolore. Nella letteratura delle origini, il dolore, imputabile alle difficoltà, talvolta insormontabili, di un viaggio di ritorno al proprio luogo di origine, fu esplorato a lungo in tutte le sue sfumature. Pur trattandosi di un lemma di conio abbastanza recente, la parola nostalgia sembra insomma far parte del nostro bagaglio genetico, del nostro arcano di esseri umani. Ogni uomo la sperimenta di continuo perché le voci che gli giungono dal suo passato hanno sempre un fascino irresistibile. Oreste Spasiano, soprannominato fin da ragazzo Malommo, quasi una condanna o forse un presagio, se ne stava seduto nel suo pigiama di felpa accanto a una tazza di caffè latte bollente e a un giornale aperto a lenzuolo sul tavolo. È concentrato, ma non teso. Anzi, appare sin troppo padrone di sé, considerate le circostanze. Non si spedisce all'altro mondo colui che è stato l'amico gemello della tua infanzia e della tua giovinezza senza una ragione di forza maggiore. Se lo ripeti in continuazione, anche a voce alta, scandendo le parole in quell'italiano approssimativo cui ricorre quando vuole rivestire di solennità le sue sentenze. Pensa di aver obbedito a un comando arrivato dall'alto, da un'imprecisata potenza sovrannaturale. A volte la vita ti dice spara, e tu non puoi far altro che sparare. Da sempre il caffè latte mattutino lo aiuta a darsi un equilibrio, a convivere con la propria natura intemperante, forse perché la bevanda ha l'invincibile profumo dell'assoluzione e dell'innocenza. Oreste Spasiano non chiama mai le cose col suo vero nome. L'autobenevolenza lo fa amica delle circonlocuzioni e delle metafore. Ha premuto il grilletto sul bersaglio 2 notti prima, dopo un agguato ben studiato. Adesso legge e rilegge il resoconto di cronaca del delitto. D'un tratto vorrebbe accendere la radio, ma poi ci ripensa. Si guarda intorno mentre dice con la voce fredda di chi rievoca un ricordo: strunzo. Tu si strunz rinte e foro, strunz, strunz, strunz. Improvviso quella voce gli è risuonata nitida nella testa. È stato l'uomo disteso per terra a parlargli così. È ferito all'addome e lui gli si avvicina a grandi passi con la pistola ancora in pugno. Quante volte da ragazzi se le sono scambiate quelle parole di rabbia, ironia, amore, odio, accusa. Sempre senza alcuna conseguenza. Strunz, può zittosa anche. Bella, la sua cucina piena di comodità, il Bello il suo vasto appartamento all'ultimo piano di un vecchio e malandato edificio del Rione. La strada si fregge presuntuosamente del titolo di Vico e si snoda fra due labbra appena schiuse dalle quali affiora una multicolore schiuma costituita dai panni stesi ad asciugare in maniera permanente da muro a muro, come archi di trionfo. Dovrebbero profumare l'aria, invece, li impregnano di uno strano odore che sa di marcio. Il suo gaudio mattutino, Spasiano detto Malommo, lo coltiva con ansiosa voluttà fin dal momento del risveglio. Apre gli occhi e subito il ricordo dell'ineffabile aroma mette in subbuglio i suoi sensi. Poco dopo, di fronte alla tavola imbandita, latte, burro, pane tostato, zucchero, caffè, svariati vasetti di marmellata e miele, celebra il rito del primo sorso, rigorosamente a occhi chiusi, in uno stato di concentrazione quasi religiosa. Tutto parte dalla cavità nasale, è lì che si concentra il profumo del caffè latte bollente, come risucchiato da una pompa invisibile. Dalla cavità nasale si trasferisce al bulbo. Il tratto è breve, questione di un lampo, spiega con benevolenza ai suoi soci più devoti che lo guardano increduli. È ancora più breve il tratto dal bulbo al cervello, passando attraverso l'etmoide. Fine del percorso. In conclusione, senza il cervello non si fa un cazzo nella vita. Non si gusta neppure un caffè latte, capito? È tutto scritto sull'enciclopedia medica. Me ne intendo, cazzo. La sua fama di duro, di uomo al quale non bisogna mai dire no, non è però incontrastata. Non soltanto adesso, in questa fase di disgrazie multipli in cui alla sanità la camorra si è frantumata in mille schegge, tutte prive di vera autorità. Ma anche un tempo, quando dominavano certi capifamiglia, capaci non soltanto di impaurire, ma anche di beneficiare di una certa quota di consenso grazie a regalie, protezioni, benevolenze. Insomma, c'era stato chi aveva saputo collocarsi parecchio più in alto di lui, talvolta addirittura per l'appoggio dello stesso Spasiano, sempre attento a scegliersi nemici alla sua portata, senza pretendere di combattere battaglie troppo più grandi dei suoi muscoli. Escluso dal gioco della droga, controlla la macchina del taglieggiamento, dello strozzinaggio, della prostituzione e della ricettazione, metalli preziosi e gioielli, e di qualche altra attività minore, ma non per questo poco lucrativa. Ma l'uomo vive solo. Ha svariate amanti, che convoca a turno. I lavori domestici sono affidati a due filippine, marito e moglie, di assoluta fiducia. Abitano nel suo stesso stabile, arrivano alle 7 del mattino nel suo appartamento di cui posseggono le chiavi. L'articolo sul quotidiano è intitolato «Delitto perfetto alla sanità». Il sommario ha caratteri un po' meno vistosi, la storia viene così sintetizzata. Ignota sia l'identità della vittima che quella dell'esecutore. L'uomo assassinato privo di documenti forse proveniva dal Nord Africa. Spasiano ha già letto la cronaca 3 volte, ma non gli basta. Pensa che vi sia ancora qualcosa da scavare in quel mare di parole. Il giornalista descrive il corpo di un uomo recomitolato accanto a 2 grandi bidoni di immondizia. La polizia non ha trovato addosso al cadavere alcun documento. Nella strada nessuno ammette di averlo mai conosciuto. Tutto lascia pensare ad una fredda esecuzione compiuta con 2 colpi di pistola. Uno esplose da lontano, l'altro meno di 1 metro di distanza, 2 fori, al ventre e al centro della fronte. Spasiano agguanta la tazza dalla quale attinge in modo incauto un abbondante sorso che gli scivola come una lama incandescente lungo la lingua fino alla gola, sussulta. Vorrebbe maledire il mondo, ma prima che la maledizione gli salga alle labbra, ecco che il risentimento si è già sciolto in nuovo gaudio. Il profumo del caffè latte dilaga ormai dappertutto, come fosse il suo fiato stesso a propagarlo, il suo corpo, il suo passato, il suo attaccamento a un rito mai trasgredito. Si alza e va a schiudere la finestra della cucina, che viene subito invasa dalle voci e dai rumori della strada. Dio, quanto si chiacchiera a Napoli! E in quel quartiere, poi, come se parlassero in modo simultaneo, oltre ai vivi anche ai morti, l'incalcolabile esercito sterminato dalla signora con la falce in non meno di 20 secoli o di più, una tale romba da strappare urla d'angoscia e zitti un momento, cazzo, chiudete quelle boccacce, spegnete quei maledetti motorini che settene per vicoli e vicoletti sibilando come frecce di Apache. A dove fuite, dove scappate come inseguiti da un nemico mortale. Ride, pensa. Si credono tutti alla portata di quel peppino che si fa trasportare in moto da un suo moschillo e agitando in pugno una pistola grida «Cago manni!». Ma la sua protesta non è del tutto sincera. Talvolta la rumba lo infastidisce, certo, ma per lo più ne è compiaciuto. Pensa che quella sinfonia tutta timpani e piatti che sale dalle viscere della sua sanità sia tutto sommato una manifestazione di vitalità possente. Anche il gesto di schiudere la finestra della cucina è per lui un rito, un'abitudine, forse persino una nevrosi. Ha bisogno di entrare subito ogni mattina in contatto con la strada, ha bisogno proprio della maledetta rumba, non meno del tazzone di caffè e latte, per sentirsi carburato al punto giusto. Tanto quanto esige la gestione di un'azienda come la sua. La chiama proprio così, azienda. Ma l'uomo è un lavoratore metodico, pignolo, incline alla burocrazia, capace, se necessario, di dominare la propria natura violenta a vantaggio della strategia e dell'astuzia. Anche nella vendetta conosce l'arte della pazienza. Non che dimentica, anzi, ma sa controllare la sua sete di rivincita. Si ritira con il giornale nella sua stanza da letto, si siede su una poltrona di cuoio bianco e si mette a leggere per la quarta volta la cronaca del quotidiano che il giornalaio gli ha lasciato accanto alla porta come tutte le mattine. Dopo una giornata di indagini rimane ancora sconosciuta l'identità dell'uomo trovato ucciso ieri mattina accanto ai bidoni della spazzatura alla salita dei cinesi. Tutti dicono di non sapere chi sia, di non averlo mai visto. Ma gli inquirenti non sembrano credere del tutto a questa testimonianza. Ovviamente anche noi che abbiamo compiuto un lungo sopralluogo sul posto, gli abitanti della strada hanno dato la medesima risposta, con la differenza che al cronista le loro parole sono sembrate sincere e attendibili. Il mistero alimenterà a lungo le nostre pagine. Lo diciamo perché all'apparenza la vittima sembra essere uno straniero, arrivato forse dal Nord Africa, stando almeno alle etichette della camicia e della giacca, il che non renderà né semplice né rapida la sua identificazione. Il corpo dell'uomo, sui 60 anni, è stato scoperto poco dopo l'alba da una donna che si era avvicinata ai bidoni per liberarsi di un piccolo carico di rifiuti. Non lo ha visto subito, era accartocciato accanto a un cumulo di sacchetti che da giorni si andavano moltiplicando a ridosso dei bidoni strapieni. Uno dei ginocchi era un po' sollevato. Indossava blue jeans su scarpe gialle, che sono state la prima cosa che ha colpito la donna. Non ha capito subito, poi ha emesso un grido di spavento. Con un calcio ha liberato la sua faccia da un paio di sacchetti che la ricoprivano e l'ha guardata. «Dio mio, che orrore!» ha dichiarato dopo essersi fatta promettere che per nessuna ragione al mondo avremmo rivelato la sua identità. E opinione della testimone, condivisa da parecchi altri abitanti della strada del quartiere, che lo sconosciuto sia rimasto vittima di un agguato per motivi di droga, ormai alla base di tutte le rivalità, controversie, gelosie, alleanze e rotture tra i diversi gruppi criminali di questo quartiere scandalo. Ma anche su questa lettura del delitto la polizia ha i suoi dubbi, benché al momento preferisca non motivarne il proprio scetticismo. Pasiano distoglie lo sguardo dal giornale. A che punto dell'articolo ha letto che il cadavere indossava un giaccone grigio sopra un maglione nero a girocolli, aveva al polso un bracciale di cuoio al quale era appesa una piccola moneta d'oro a mo' di ciondolo? Scorre in velocità il testo residuo finché rintracci il capoverso che cercava. Come gli era potuto sfuggire la presenza di quell'oggetto al polso di Felice Lasco, l'amico inseparabile della giovinezza da lui spedito, non senza una certa pena e tuttavia con grande determinazione all'altro mondo? Infatti non gli era sfuggita, non del tutto. Non ne conservava un ricordo nitido, ma annebbiato e confuso, sì. Il ciondolo attaccato al filo di cuoio, forse lo aveva intravisto mentre frugava nella giacca del cadavere, sottraendogli portafogli, carte varie, un taccuino di indirizzi, il passaporto. Lo aveva intravisto, salvo dimenticarsene subito. Pasiano scuote la testa. Ciondolo non ciondolo, la polizia non tarderà a dare un'identità al cadavere. Il problema non è questo, ragione. Il problema è se gli investigatori riusciranno a dare un senso compiuto alla vicenda, a risalire sino a lui al movente che ha armato la sua mano. Quel movente giace sepolto sotto un impenetrabile coltre di polvere. 45 anni e oltre di silenzio e di oblio. Una corazza. Riusciranno a sotterrarlo? Si avvia in bagno per le abluzioni mattutine. Si sente in una botte di ferro. È tra le sue espressioni favorite. Anche perché è sicuro di aver agito senza testimone e in ogni caso con il volto protetto da un passamontagna. Si studia a lungo davanti allo specchio, con quello sguardo intermittente, privo di pazienza, proprio di chi non è abituato a fissare negli occhi troppo a lungo nessuno, neppure se stesso. E mentre si insapona la faccia per radersi fino a quasi nasconderla del tutto dietro la schiuma, rivede il film dell'agguato. È notte fonda. Non piove, ma il selciato è bagnato e sa di muffa. Luccica come se i basoli fossero specchi neri nei quali la notte rimira compiaciuta se stessa. Le ombre dei palazzi, un balcone dentro una pozza d'acqua, Spasiano è imbacuccato in un grande cappotto blu scuro, il bavero alzato, un cappello con la visiera calata sugli occhi. Sa che Felice Lasco passerà per quel vicolo poco dopo la mezzanotte. Lo sa perché lo sta facendo pedinare da tempo, perché conosce le sue abitudini, perché gli sembra di aver intuito un desiderio di provocazione, quasi di sfida, da parte sua. Sono qua, non mi nascondo, non ti tento, uccidimi se ne sei capace. Quando lo scorge da lontano, si schiaccia con il corpo ancora di più contro il portone che ha scelto come nicchia di appostamento. La sagoma di Felice è inconfondibile, il suo passo è regolare ma lento, il passo dell'uomo sovrappensiero. Anche da ragazzo era così, sempre concentrato. «Che fai, Rurm?» gli diceva sferzante Malom. «Falì, scetata!» «Strunz!» replicava Felice, e scoppiavano entrambi in una fervorosa risata. Vivevano incollati l'uno all'altro, avevano cominciato a incollarsi quando portavano ancora i calzoni corti, avevano la stessa età, appena 7 mesi di differenza, che tuttavia Oreste, ora per scherzo, ora in modo serio, pretendeva di accampare come vantaggio in materia di decisioni. Caso un giga cumanna, su chi vecchie te? Felice di norma non rispondeva, gli sorrideva ironico e accondiscendente. Gli eventi appena narrati non sono immaginari. O meglio, diciamo che non lo sono del tutto. Della loro ricostruzione è infatti almeno in parte responsabile la stessa vittima, Felice Lasco, con il quale stabilì un rapporto di grande confidenza al suo rientro in Italia, dopo 45 anni di lontananza ininterrotta. Fu in uno di questi momenti di esaltata preveggenza che mi descrisse, con l'esasperato puntiglio che gli era abituale, la scena della sua morte. Me la offrì come un gioco, ma forse per lui non lo era. I suoi passi lo condussero quasi a sua insaputa, in modo meccanico, qui al Monacone, e io fui una delle prime persone della tribù di Don Luigi Rega, l'ineffabile parroco del Rione Sanità, che lo incontrò e, incuriosito della sua personalità, dall'aura di mistero dolente che lo circondava, si prese subito cura di lui. Chi la dimenticherà più la sera della sua inaspettata comparsa? Ero nella sacrestia della basilica quando mi si avvicinò un ragazzo e mi disse che alla porta c'era uno sconosciuto, probabilmente straniero, stando alla parlata, che chiedeva di incontrare il parroco. In sua assenza lo accolsi io, ricevendolo nello studiolo di Don Luigi, una saletta appartata lì accanto. Era sui 60 anni, aveva un fisico asciutto ma gagliardo, una faccia intensa, scavata, come scolpita nella pietra. Un bell'uomo dalla capigliatura sale e pepe. Si scusò per come parlava, un misto di vari idiomi declinati in una sorta di residuale cantilena napoletana, per la verità con un effetto un po' comico, anche a causa delle evidenti timidezze che lo induceva qua e là a balbettare. Disse di essere arrivato da qualche tempo dall'Egitto, dove abitava, ma di essere nato a Napoli, alla sanità, da genitori entrambi del posto, solo che se n'era andato ancora ragazzo e non era più tornato. 45 anni di assenza, il tempo di rifarsi una vita, di diventare un altro, spiegò. Una storia piuttosto stravagante. Ma quale storia non lo è, in quella sorta di quartiere fantasma che risponde al nome di sanità? Per molti, e non soltanto forestieri, ma anche partenopei puro sangue, è soltanto un flatus vocis. Non ha consistenza reale, appartiene a quell'immaginario che vuole la metropoli disseminata di siti incogniti e meravigliosi, o anche tragici e violenti, sempre però dentro una nube di mistero. Ma esiste davvero la sanità? Legittima la domanda, l'incertezza di molte risposte. Forse non esiste, ma è soltanto un buco nero. Una grotta profonda e vasta con tante diramazioni. Sì, esiste, ma io non ci sono mai stato. Io invece ci sono stato una volta, ero molto piccolo. Mi ci portò mia madre ammonendomi di restarle sempre accanto perché quel luogo pullulava di ladri di bambini. Povera sanità. Strade strette e tortuose, palazzi fatiscenti. Alle spalle una storia lunga più di 2000 anni, testimoniata da ipogei, altari, sepolcri scolpiti, scale che scendono sottoterra come volessero raggiungere le viscere del pianeta. Felice Lasco colpì subito la mia immaginazione. Mi sembrò fatto della stessa materia improbabile di questo mio quartiere fantasma, ma come filtrata da un'incontenibile ansia di superarla, di non restarne passivamente succubo. Aveva letto molti libri e non faceva nulla per nasconderlo, sia pure senza alcuna ostentazione. Dopo quel primo incontro ne seguirono altri ancora. Dietro l'apparenza tranquilla nascondeva un animo tormentato e in perenne subbuglio. Ora taceva in modo ostinato, ora parlava senza fermarsi mai, con un fervore che sembrava sospingerlo in maniera via via più pressante oltre i confini della realtà, laddove tutto si fa epico, compresa la banalità quotidiana. Delle sue considerazioni riverberava una sorta di saggezza rabbiosa, intrisa di deserto, di sconfinata solitudine, resa tanto più ruvida da quella sua lingua bastarda, comica, certo, ma anche a tratti melodiosa. Ho più di 70 anni. Sono un medico in pensione, un cardiologo senza troppe pretese scientifiche, ma tenuto in grande considerazione dai suoi pazienti, appesantito nel corpo ma non nell'animo. Frequento la Basilica del Monacone da tempo immemorabile, da molto prima che arrivasse come parroco Don Luigi Rega. Ma non sono quel che si dice un uomo di fede. Semplicemente non credo in Dio. Come mai? Mi chiese un giorno Don Luigi. Meglio così, risposi, altrimenti dovrei stare dalla mattina alla sera a litigare con lui. Poiché faccio molto volontariato e sin da quando ero un ragazzo mi ritengo soprattutto a servizio del prossimo, la replica del parroco fu benevola, tanto da non averla più dimenticata. Dico, disse, sarai pure un ateo peccatore, un incallito miscredente, ma un uomo come te lo ammira anche il Padre Eterno. Lasco però non colpì soltanto la mia immaginazione, anche il mio sentimento. Le amicizie implicano sempre un tanto di infatuazione. Anche altri vari ragazzi della tribù del Monacone diventarono suoi amici, nonché suoi confidenti, ma in maniera, come dire, più saltuaria e superficiale. Sta di fatto che Felice Lasco finì per aprire il suo cuore soprattutto a me, forse a causa delle nostre imponderabili affinità elettive, o piuttosto in omaggio alla mia esperienza e alla mia età, affidandomi, come un fratello maggiore, il racconto senza fine della sua vita. Ciò non toglie, tuttavia, che a queste pagine, racconto, rivelazione, esposto giudiziario, abbiano collaborato in tanti, quasi un romanzo collettivo della comunità del Monacone, con la supervisione personale dello stesso parroco, l'infaticabile Don Luigi Rega. Sia chiaro, però, a scriverle materialmente una riga dietro l'altra, una pagina al giorno, talvolta due, non di più, sono stato io, così come sono stato io, prima della sua morte violenta, a raccogliere in due voluminosi quaderni i racconti delle quotidiane escursioni di Felice Lasco nel quartiere natio alla ricerca della propria smarrita identità, che lui tentava di ricostruire un pezzo alla volta. A farlo riemergere dal passato era ora un vetusto palazzo dai muri sbrecciati, ora un rigagnolo melmoso, ora una bomba olfattiva. Tutte fonti di struggenti evocazioni che rammentavano all'uomo venuto dal nulla chi era in realtà e di che materia era fatto il suo passato. A quanti poi dovessero ritenermi un po' troppo orgoglioso nel rivendicare il mio ruolo di autore di questo testo, Desidero chiarire che la questione non può e non deve essere considerata da un unico punto di vista. Queste pagine esplicitano responsabilità penali e lo fanno in un modo così diretto e perentorio da rendere inopportuna, arbitraria e perfino abusiva ogni ulteriore testimonianza, salvo quella di Don Luigi Rega. Avrei preferito che il nostro parroco si fosse astenuto dall'esporsi in prima persona, ma lui non ha voluto sentire ragione. E non desidero coinvolgere altri in questa impresa accusatoria che immagino irta di pericoli, benché Lasco, con le sue rivelazioni, ci avesse reso tutti partecipi del suo terribile segreto, diventato, soprattutto dopo la sua morte, un fardello insopportabile per chiunque. In pratica, la storia di ben due delitti, avvenuti a distanza di molti anni uno dall'altro, ma legati da un invisibile filo rosso, in quanto compiuti entrambi dalla stessa mano. Il primo facendo fuori un vecchio usuraio, il secondo lo stesso Lasco. Oreste Spasiano mi ucciderà, vedrete, o perlomeno tenterà di uccidermi. Quante volte gliel'ho sentito ripetere.